ho usato un po' il libro, no, per ripensare la mia esperienza, perché è un processo che sta andando avanti da un po' di anni, proprio di rianalizzare questa esperienza, chiaramente che per me è stata molto importante perché ho occupato 25 anni in carcere della mia vita, oltre tutti gli anni che ho occupato prima del carcere e anche adesso, diciamo. Però volevo dire una cosa in generale su questo libro, perché secondo me c'è una tradizione molto importante nei movimenti rivoluzionari, quello di scrivere le memorie dal carcere, e questi libri sono stati fondamentali proprio nell'educazione politica in certe lotte, per menzionare quelli che forse a me mi hanno in qualche modo dato quella spinta necessaria. Allora, le memorie del carcere di Ho Chi Minh, chiaramente questa è una cosa che si è letta molto durante il periodo della guerra in Vietnam, ma anche La storia mi assolverà di Fidel Castro, che lui ha scritto in carcere, no? che è un po' le basi delle ragioni per la rivoluzione cubana. E negli Stati Uniti invece ci sono tutta una serie di libri da parte delle donne, una che si chiamava Elizabeth Gurley Flynn, che era la responsabile delle donne per il Partito Comunista Americano, e un'anarchica di nome Emma Goldman, che era molto all'avanguardia, specialmente sulla questione delle donne. E mi sembra che questo libro veramente porta avanti questa tradizione, ed è molto importante perché fa due cose che Rosina ha già menzionato. Uno, insegna a una persona come me, che onestamente non conosceva molto, chiaramente sono arrivata in Italia dopo che Ocalan era stato cacciato via dall'Italia, perciò certe cose le conoscevo, però non è che conoscevo la realtà e la storia del popolo curdo. Perciò questo libro ha un ruolo molto importante in introdurre quella storia a persone anche come me, che pur avendo un passato e un presente molto politicizzato, non necessariamente conosce quella lotta. L'altra cosa che direi che fa questo libro, che è molto importante, è che trasmette certi principi rivoluzionari, e qui non faccio distinzione tra uomini e donne. Questo mi ha molto colpito, perché secondo me la compagna Sara Ossakhinè ha veramente l'urgenza di comunicare il diritto alla resistenza, e questo suo percorso in carcere è proprio un'affermazione di quel diritto alla resistenza. Una cosa che in Italia si è molto vissuto e conosciuto, e che forse oggi è meno presente e meno reale per tutti. Però in questo libro questo diritto alla resistenza viene affermato in ogni modo, e viene anche affermato, secondo me, in una lotta molto importante per cui lei si rende responsabile, che è la lotta contro il tradimento. Perché è attraverso il tradimento che, secondo me, il movimento, l'organizzazione, poi il partito, perché il partito viene fondato forse quando lei è in carcere già, sono attaccati da quello che lei chiama, non menziona mai lo Stato turco, menziona solo la parola il nemico. Anche questo, secondo me, è una scelta molto interessante, di non, come dire, di non dare quella dignità all'antagonista. Comunque questa lotta contro il tradimento lei la costruisce, e la costruisce basandosi sul recupero delle compagne che erano già in carcere, e secondo me lei fa un'operazione veramente molto intelligente, che lei analizza la situazione e decide che il recupero di queste donne può essere la partenza all'interno del carcere di una resistenza che può cambiare anche gli uomini che hanno iniziato in qualche modo a compromettere e a vacillare. Ed allora questa costruzione di questa entità che lei prende con molta inizia con molta consapevolezza, penso, anche sacrificando delle sue, dei suoi principi, perché fa una cosa che non voleva fare per raggiungere e stare con le altre donne. Leggete il libro e lo scoprirete che comunque è importantissima, perché che succede secondo me, e fa parte di questa tradizione del ruolo del rivoluzionario in carcere, in un momento dove al di fuori c'è molta repressione, gli arresti sono pesanti, ci sono tradimenti di alto livello, la resistenza nel carcere mantiene viva la lotta del popolo curdo. Infatti lei a un certo punto scrive su un muro: non ci seppellirete, noi resisteremo e noi saremo capaci di emergere. E questo uso proprio di questo diritto alla resistenza e della lotta contro il tradimento, secondo me è importantissimo quando si parla del carcere. E vorrei dire che nella mia esperienza, senza parlare sempre di me in prima persona, quelli che forse l'hanno nel carcere degli Stati Uniti l'hanno vissuto e sono stati esemplari sono stati i detenuti politici portoricani, che non provenendo da una colonia diretta degli Stati Uniti si sono immediatamente dichiarati prigionieri di guerra, si sono rifiutati di accettare di essere processati da una corte civile, volevano essere processati da una corte militare, perché loro si consideravano membri, donne, uomini di un esercito di liberazione nazionale, come le persone in carcere la cui vita viene descritta in questo libro. E questa posizione l'hanno mantenuta finché non sono stati scarcerati. La cosa interessante, penso sia anche il punto che fa questo libro in qualche modo, è che la posizione più limpida, la posizione più radicale che loro hanno mantenuto in tutti gli anni della loro incarcerazione, loro hanno rifiutato di moderare la loro posizione, loro hanno rifiutato in qualsiasi modo di accettare di dissociarsi o di tutte queste cose, ha creato sull'isola e anche all'interno degli Stati Uniti un movimento così importante che Clinton li ha liberati. Perciò non è necessario. Questo mi ha fatto anche molto pensare all'Italia, dove invece il percorso secondo me è stato un po' differente e ha creato disastri, perché la questione proprio della dissociazione e la questione di mantenere la propria identità politica e culturale, secondo me, quando uno è detenuto è assolutamente fondamentale. E questa è una delle questioni che lei esplora e illustra. C'è un altro punto che volevo dire. Chiaramente il diritto alla resistenza lei lo esprime anche pianificando con altri detenuti o da sola la sua evasione. Non so quante volte la pianifica questa evasione, ma credo almeno un minimo, non ho contate, però direi un minimo di 5. Ogni volta gli va male, ogni volta per qualche ragione non succede, i compagni arrivano 10 minuti troppo tardi in ospedale, il messaggio non arriva alla persona. Una volta il tunnel viene scoperto dopo che avevano lavorato per mesi. Ma questa insistenza di dire anche: non solo noi abbiamo il diritto di resistere, ma il diritto di stare fuori e di non rispettare niente di quello che voi imponete su di noi. Questo secondo me è molto molto importante, perché trasforma la questione di quali sono le responsabilità di un prigioniero politico nel mondo di oggi e nel contesto di una lotta. Non credo che questo sia universalmente accettato, ma è secondo me una cosa che ci deve far pensare, che un po' rivoluziona tutta la questione legale, illegale, criminale, non criminale. E secondo me questo libro è molto, dà una lettura molto importante di questo. Ah, direi che poi un'altra cosa che mi ha molto colpito, e anche qui voglio pensare un po' all'Italia, è che dopo il coup d'état che è successo nel 1980, quando i militari hanno preso controllo della Turchia, e lei e altri prigionieri politici vengono trasferiti in un carcere militare di Diyarbakir. E qui quello che accade, i maltrattamenti, le torture, tutte hanno... Si aggiungono due altri aspetti che secondo me sono fondamentali. Uno è la questione che devono dire io sono turca e tutti i detenuti devono dire io sono turchi e devono cantare gli inni militari, devono accettare in qualche modo l'ideologia che lei chiama kemalista e fare queste marce militari. E questo chiaramente perché? Perché essendo una lotta di liberazione nazionale, la negazione della propria identità è la scomposizione di tutto quello per cui hai lottato e cui ti trovi in quella situazione. E è proprio iniziare a vacillare su quelle questioni che poi lancia questa campagna che io la chiamo la campagna contro il tradimento. Vorrei dire questa cosa perché c'è molta discussione in Italia che, per esempio, adesso voglio divergere un minuto, ma secondo me è collegato, che i migranti devono abbandonare chi sono in qualche modo e diventare italiani, e forse dovremmo tutto leggere questo libro per capire il significato di che significa chiedere a una persona di abbandonare la propria identità, una identità che è stata costruita nella storia e nella cultura dei paesi da cui provengono. Perciò secondo me l'importanza anche di questo libro, direi, che a me mi ha molto richiamato, e poi finisco così magari, è anche di questioni che sembrano lontane dalla nostra realtà, invece hanno un'applicazione molto importante oggi. L'ultima cosa che menzionerei è che nel carcere militare la questione della violenza di genere, la violenza contro le donne, sia fattuale che minacciata, è un'arma che i militari usano. Fino a quel momento, almeno nel libro, questa cosa non appare così specifica, invece proprio la minaccia di stupro, la minaccia di... va bene, non descriviamo, andiamo avanti, viene usata contro le donne e questo è un aspetto proprio della guerra odierna, no? Che la guerra odierna è molto combattuta sul corpo delle donne, è anche combattuta nella nostra società sui conflitti sul corpo delle donne, però è una caratteristica di queste guerre, come ha detto Rogin, che queste guerre vengono combattute sul corpo delle donne, e chiaramente in carcere questo diventa un'arma del terrore, e lei è molto, secondo me, brava a comunicare proprio quell'aspetto, ma anche l'aspetto della resistenza, perché una cosa importante che secondo me avviene nel libro, che fa parte della consolidazione, si dice in italiano? Consigliamento, grazie. A volte mi capita, della donna come un'entità all'interno del carcere, è questo patto di resistenza che fanno tra di loro, dove decidono meglio il suicidio che essere sottomettersi alla violenza di genere. E questo è un'altra volta, secondo me, l'affermazione del diritto a questa resistenza, non importa il costo.